vado, ciccio. Ah, non è vero. Seguendoti il sogno fragile, il mondo ti gira lontano da me, allora morirò. Ma aspetta che mi illuda e poi sarò un essere inutile, sperando che sia facile. Diverso da diverso come te, diverso il fragile, diverso da diverso come te. Fuori è inutile, ti senti solo ma solo sei invincibile, inconscia gioia in te, la sento indistruttibile, ma quando se ne va ti lascia solo a piangere. Diverso da, diverso come te, diverso il fragile, diverso da, diverso come te. Una malattia eterna.